A Rock FM sono le 8 spaccate, reparto Radio Sveglia. Ah, ragazzi, non sognatelo, siatelo. Torniamo a svegliarvi con il Rocky Horror Picture Show, uno dei brani che ci eravamo fatti scappare per l'inizio della seconda ora di diretta di Pane, Burro e Rock and Roll con l'Ariele, Spadino e Roberto Fricantoni. Buona giornata, amici ed amiche. Quest'oggi vi svegliamo così. Whatever happened to Fairy? Brividi. That delicate satin draped frame as it clung to her thigh. Oh, how I started to cry. 'Cause I wanted to be dressed just the same. Give yourself over to absolute pleasure. Swim the warm waters of sins of the flesh. Erotic nightmares beyond any measure. And sensual daydreams to treasure forever. Can't you just see? Sognatelo, siatelo. Ah, we've got to get out of this trap before this decadence saps our wits. I've got to be strong. Try to hang on, or else my mind may well snap, and my life will be lived towards hell. Trouble and pain. If io lo passerei tutto il Rocky Horror, proprio dall'inizio alla fine. Il brutto epilogo del Rocky Horror Picture Show, quando fanno prigioniere Tim Curry. Ma vogliamo parlare dello stato di grazia nel quale Tim Curry ha cantato questa colonna sonora del Rocky Horror Picture Show? Va bene, quest'oggi siamo tornati a svegliarvi con questo musical, con questa colonna sonora. Speriamo di aver fatto cosa gradita ai folli là fuori. 8 e 6 minuti primi, il Rocky è sempre il Rocky. Più rock di così vale da Genova, ecco il commento che arriva in diretta. Il reparto musicoterapia è finito? Ho una canzone disco anni 70 che mi tormenta. Aiuto, Paolo. Hai ragione, Paolo. Quello è sicuramente una delle rubriche che dobbiamo riprendere. Noto anche parecchi commenti riguardanti la nuova rubrica dedicata al reparto cultura, Le parole ribelli, andata in onda qualche minuto fa. Leggo due commenti. Uno è: e sti cazzi. E l'altro è: Freak, ti vogliamo ministro della pubblica istruzione. Questo per farvi capire come il nostro pubblico si divida nei confronti delle nostre rubriche. Ehi Freak, sei un teppista. Firmato Matteo. Dobbiamo correre, oggi abbiamo tante di quelle cose da fare che siamo già incasinati fin sopra il collo, ma velocemente. Elena tredicenne e mamma Deborah da Lucca hanno tre gatti e ci tengono a farcelo sapere. Uno si chiama Janice, l'altro Carlos e l'altro Axel. E il cane si chiama Rocky. È Rock. Secondo me dovremmo dedicare un reparto ai nomi dei vostri animali, perché so che potete regalarci delle soddisfazioni. E a questo proposito saluto al volo il mitico Ruvido, il grande tour manager dei Pancreas, colui che mi ha immesso sulla strada del punk quando ero piccolino, nella Varese che non contava. Lui aveva un gatto che si chiamava Sid Michus. E a questo proposito saluto, e spero non si offenda, il radioascoltatore al quale domenica ho autenticato una patente da vero rocker. Lui come soprannome aveva Sid Michus. Gran soprannome. Uè! We'll be right back. Questo giovedì 4 ottobre sembrerebbe così a prima vista scuro, freddo, soprattutto sembrerebbe proporre pochi compleanni. E invece sono pochi davvero, ma significativi quelli che abbiamo raccolto attraverso la redazione di Pane, Burro e Rock and Roll. Questa era una ottima cornicetta per parlare, per l'appunto, dei festeggiati di quest'oggi. Nascevano il 4 d'ottobre, come forse qualcuno dei nostri amici e delle nostre amiche là fuori. Allora facciamo gli auguri a tutti nati il 4 di ottobre. Sì. Auguri. Ma era il 1895 quando, come voi, nasceva Buster Keaton. Grande attore e regista statunitense, è morto, ahimè, in miseria, nonostante fosse un genio. Lo ricorda sempre la fine in miseria di Buster Keaton. Sì, ma anche di Staglio e Olio, volendo ricordarne altri. E poi tantissimi geni del cinematografo finirono male anche per l'avvento del sonoro. Non fu questa la causa del disastro di Buster Keaton, ma certamente in qualche modo contribuì, e poi una serie di dissesti finanziari. Comunque era il comico che non rideva mai e nonostante tutto faceva morire dal ridere. Passiamo invece a un musicista, un grande musicista, Jim Fielder. Nasceva nel 1947, bassista americano dei mitici Blood, Sweat and Tears. Sangue, sudore e lacrime. Vede che lo sa l'inglese, ma sembra la sua lingua madre. Matrigna, diciamo, matrigna. Per essere sinceri. Ma una grande attrice. Sì. Una grande attrice. Bella, eh? Bella e brava, nata nel 1946. Si tratta dell'attrice americana, statunitense per essere esatti, Susan Sarandon. Ah, Susan Sarandon, bella e brava. Bella e brava, la ricordiamo quasi agli esordi in Rocky Horror Picture Show. Esatto. Jane, nei panni di Jane. Ha detto benissimo. Di fianco al suo Brad, Janet, bravissima. Susan Sarandon, auguri. Chiudiamo invece con un cantante italiano. 1960, nasceva Francesco Baccini. È rock oppure no? Ma sì, dai, è rock. Faceva il camallo. Lei sa che faceva Cos'è un camallo? Lei lo sa benissimo. No, non lo so. Ma sì. So cos'è un cameo, ma non cos'è un camallo. Lei sa anche cos'è un cammello. No, sì, ma un camallo, ma no. Non sa cos'è un camallo. Me lo dica. Ma lei naturalmente non sto fingendo, finge, non lo so, di non sapere, non può. Cos'è non un camallo? Era Genova, lui era Francesco Baccini, aveva bisogno di denaro, sì. Pertanto fece il caricatore e lo scaricatore di Porto. Ecco, mi sono attirato le ire dei radioascoltatori liguri. Grazie, maestro. Grazie. Ma no, era detto con simpatia. Viva la Liguria! Viva Genova! Viva i camalli! E beh, che c'è? Then put your little hand in mine. l'appunto I Got You Babe, i Pretenders, alle 8 e 18 minuti primi, con l'Ariele, pane, burro e rock and roll, la nostra squadra, nella quale ormai da qualche settimana invitiamo almeno un paio di volte a settimana un altro dei militari là fuori di pane, burro e rock and roll, Carlo, il nostro tabaccaio di fiducia. Buona giornata, Carlo. Ciao, eccomi qua. Oggi mi sono svegliato con un'idea particolare. Sì, dimmi. Allora, secondo me, se questi numeri del lotto metti che un giorno o l'altro li azzecchiamo, ci compriamo le frequenze da qualche parte. Sicuramente. Cioè dovremmo fare, allora, la terna di oggi che daremo, se la azzecchiamo... Ah no, oh, mi è venuta ancora meglio l'idea. Allora, sai che la terna di solito la giochi su una città anche? Certo, esatto. Allora, sulla città in cui la giochi, se vinciamo, compriamo le frequenze lì. Facciamo okay. Un po' tipo Risico, mi piace un sacco questa idea. Che tripletta pensavi per quest'oggi? Guarda, allora, visto che sabato c'è la festa di Rock FM, direi di giocare 6, che è il giorno della festa di Rock FM. Permettimi di farti subito i complimenti, innanzitutto sì. Per la scelta, bravo. Quindi 6, okay, che è il giorno, va bene. Il giorno, esatto. 10, che è il mese, ovviamente, che però anche per la cabala si riferisce al cannone. E poi lì è da interpretare un po', poi lì a discrezione, insomma, degli utenti. Ecco. Cioè il 10 è il cannone. È il cannone, che però è anche il mese, diciamo. Perdonami, dici che è per quello che da ragazzino andavo a comprare il Deca? Perché era probabile. Il decino, forse arriva da quello. No, non credo. Sai che io vendo le cartine, quindi ecco, insomma. Vabbè. Proseguiamo! Poi 20 la festa, ovviamente. Senti, no, però dimmelo in napoletano, dai. No, il napoletano io non c'è zero. Lo so che non lo stai neanche. A festa sarà. A festa. So. Facciamolo un po' smorfia, insomma. Perché le mie origini sono genovesi. Ho capito, però a Cesare quel che è di Cesare, la smorfia è napoletana, non so okay. Cosa dirti. Va bene. E, festa. E poi questa era la terzina. Questo è esatto, il terno. Poi se proprio vogliamo appunto comprarci le frequenze, allora diciamo che bisogna aggiungere altri due numeri per puntare bravo, una cinquina. Bravo. Che ci dà bravo. Veramente il colpo vincente. Esatto. Quindi sarebbe 17, che sono gli anni da festeggiare, okay. Il compleanno. Per la cabala? Per la disgrazia, ma ovviamente per chi non sente Rock FM a questo punto. Per te, adesso non so là fuori se si capisce, ma Carlo studia la notte per queste cose qui, Davvero, perché ce le ha precise al millimetro, quindi 17 che sono gli anni di Rock FM e per la cabala la disgrazia di a chi ascolta le altre radio, bravo. Esatto. E l'ultimo numero? L'ultimo è il 34, che è dove si festeggerà il riferimento, dove si festeggerà appunto questo compleanno, che è il carcere, e perché chiaramente ha Alcatraz era la famosa esatto. Prigione in San Francisco. Esatto, quindi il carcere pieno di gente. Precisamente pieno Guarda, di gente. Carlo, l'hai veramente azzeccata. Ricordiamo velocemente: 6, 10, 20, 17, 34. Precisamente, esatto. Su che città la giochiamo, che poi ci compriamo le frequenze? Ma io direi su Milano, dai. Ma Milano ce l'abbiamo già, però. No, aspetta, fermo. Ah, già, vero, vero. Allora facciamo, non so. No, oppure facciamo così: Milano, ma se vinciamo, compriamo tutta la Lombardia, una roba chiaro, così. Allora Milano e tutte, dai. Ecco, esatto, bravo. Carlo, grazie mille. Facci sapere, mi raccomando, domani se devo aprire un conto in banca in Svizzera o no. Senz'altro. Ciao, okay. A presto. Ciao, arrivederci. Che poi dovesse mai giocarli e vincerli, visto che io in realtà non li gioco mai, voglio vedere se poi divide, Carlo, Sarà lì che ti taneremo. Caro il nostro tabaccaio. You said the brains I had were- La classica forma del test attitudinale è una domanda, tre ipotesi di risposta, voi fate la vostra scelta e se azzeccate, vi cuccate i vostri due bei punti per la patente da vero rocker. Come per la patente automobilistica e o motociclistica e altre simili, due ipotesi sono verosimili e abbastanza, come dire, plausibili e una è totalmente sballata. Anche quest'oggi affrontiamo un classicissimo forse non tutti sanno che ed andiamo a parlare di un certo Bruce Dickinson, se lo ricorda? Ma naturalmente, il grande cantante degli Iron Maiden. Forse non tutti sanno che Bruce Dickinson ha anche un soprannome, adesso non è che solo Roberto Antoni può avere il soprannome Freak. E già nel nome di Iron Maiden, sì, la verginella d'acciaio, sì, sono stati veramente tosti questi ragazzi, hanno scelto giusto. Ma anch'io sono curioso di sapere com'era soprannominato Bruce Dickinson. E allora ce lo dica, ipotesi A. Oscaraffone, soprannome. Non me lo dica meglio, la Beh, prego. Oscaraffone naturalmente, ecco, tradotto in italiano, l'equivalente, sì, in inglese. Oscaraffone, soprannome che ricorda le origini napoletane della famiglia Dickinson. È forse napoletano Dickinson? Ipotesi B. Il soprannome di Bruce Dickinson fu The Boss, per la sua particolare propensione a comandare sempre. E allora è questo il soprannome di Bruce Dickinson? Ne parliamo dopo. La soluzione C prevede Raid Air Siren, cioè sirena d'allarme aereo. Questo il soprannome di Bruce Dickinson, riferendosi alla potenza della sua voce. E allora qual è questo soprannome? Oscaraffone, The Boss o Raid Air Siren? Beh, la soluzione come al solito a dopo, la risposta a tra poco.